ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, siamo in collegamento con un attivista e scrittore italiano di origini camerunensi, famoso per essersi adoperato nel campo dei diritti umani, per aver scritto dei saggi sui temi del caporalato e delle discriminazioni sociali, e anche il fondatore e presidente dell'associazione No Cap. Ivan Sagné, benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Parliamo con lei perché le hanno appena conferito la cittadinanza onoraria del comune di Lecce per il suo attivismo. Lecce, quindi Puglia, quindi una zona dove questi temi sono sentiti moltissimo. Qual è la situazione oggi rispetto anche alle battaglie che lei ha fatto? Innanzitutto sono molto onorato di aver ricevuto questa onorificenza, perché Lecce è sempre stato nel mio cuore, sono molto legato a quella città, soprattutto rispetto alle battaglie, alle cose che lei ha ricordato prima. E purtroppo dopo qualche anno, dopo 10 anni, la situazione non è cambiata dal punto di vista del rispetto dei diritti dei lavoratori, dal punto di vista sociale. Ciò che è cambiato è che si parla un po' di più del progetto, del problema. Adesso bisogna lavorare sulla concretezza per cercare di sradicare definitivamente il problema del caporalato e dello sfruttamento nel Salento e non solo lì, ma in tutta Italia. In tutta Italia, perché è un problema che riguarda anche tantissimo il nord, adesso ne parleremo. I consiglieri di centrodestra hanno preferito abbandonare l'aula al momento di questo voto, si erano già dichiarati contrari in commissione. E cosa può dire in riferimento a questa protesta che un po' così insulta anche il lavoro che lei ha fatto in questi anni? Ma sono rimasto sorpreso da questo atto, da questa azione da parte dei consiglieri della minoranza di centrodestra del Consiglio Comunale. Non me lo aspettavo, anche perché quello che ho fatto, quello che stiamo facendo è una battaglia di civiltà e dovrebbe quantomeno avere il consenso di tutti, stare dalla parte della legalità, la parte dei diritti. Io non capisco, anche perché lo stesso comune ha conferito a gennaio scorso la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, e quindi non capisco qual è il problema sul mio riconoscimento. E poi i diritti sono di tutti, la Costituzione è di tutti i cittadini, stranieri o italiani, e abbiamo tutti il dovere di difenderla, questa Costituzione. Quello che ho fatto è quello che sto cercando di fare. No, I've never really been the smartest. Yeah, I've made my mistakes. You were there when times were at their darkest. Always showing me the way, lead the way. Your love seems to cut me deep, the sharpest. You'll always have a part of me, a part of me. Losing you has always been the hardest. I wish it were the old days. Cause I was 18 and I still live with my... È arrivato in Italia in realtà per motivi di studio nel 2008. Come mai aveva deciso di lasciare il Camerun? Io sono sempre stato innamorato dell'Italia. Dall'età di 5 anni io scopro l'Italia attraverso i mondiali di calcio Italia 90. Mm-hmm. Il mio paese, il Camerun, partecipò a quei mondiali e per me, che horror bambino, è rimasto impressa nella memoria, e da lì che nasce il mio interessamento verso questo paese, vedendo i giocatori. Io mi ricordo non solo dei giocatori, ma la canzone ufficiale di quei mondiali, quella di Gianni Agnini, Edoardo Renato, Notti Magiche, che cantavo ovunque, nei corridoi, in casa, a scuola. Sono cresciuto con l'Italia nel cuore e avevo già deciso che da grande il mio primo paese sarebbe stato l'Italia. E ho fatto di tutto, sono venuto qui regolarmente con un visto di studio e ecco, ho raggiunto quel sogno. Che cosa studiava in quel periodo? Io ho studiato ingegneria al Politecnico di Torino. E poi com'è finito a Nardò, dove ha fatto il portavoce dei braccianti, una masseria, e qui ha anche stimolato a riflettere sui diritti dei lavoratori? C'è stato un mese di sciopero ed è stata la prima situazione che portò al primo processo in Europa sulla riduzione in schiavitù. Sì, io sono andato a Nardò nel 2011, 9 anni fa, perché volevo lavorare per poter mantenermi agli studi. E in quell'anno, avendo perso la borsa di studio, quindi questo significava per me pagare tasse più alte, significava uscire dalla casa dello studente, quindi andare in affitto, avevo bisogno dei soldi. E come ogni studente, può capitare a uno studente, sono andato a lavorare, ho cercato il lavoro, mi è stato indicato la raccolta dei pomodori in Puglia, a Nardò, e sono andato pensando di trovare un lavoro come tutti gli altri, un lavoro normale. Invece non solo ho scoperto un contesto fuori luogo, non mi aspettavo di trovare in Italia, in un paese che è la settima potenza economica del mondo, trovare dei ghetti, delle baraccopoli di plastica e di cartone, dove ho vissuto per un periodo, dove vivono molti braccianti stagionali non avendo un'accoglienza degna per i lavoratori, quindi vanno a finire in quei luoghi di degrado. E quindi ho scoperto quei luoghi e sono rimasto quanto scioccato da quello che ho visto. Poi, come dicevo, pensavo di trovare un lavoro normale, invece ho scoperto la schiavitù, ho scoperto il caporalato, un fenomeno che non avevo mai sentito parlare. Ho scoperto migliaia di persone che vivevano e lavoravano in quelle condizioni da semi schiavitù, e dopo qualche giorno ho deciso di ribellarmi. Forse ero la persona che era più consapevole dei propri diritti e venivo da un contesto diverso, quella dell'università, quindi un po' più sindacalizzato rispetto agli altri. E ho fatto due conti, ho detto che non era possibile lavorare in quel modo, venivamo pagati a cotti, facendo una proporzione rispetto al salario orario, guadagnavamo un euro a ora, alcuni giorni di meno. Lavoravamo per 12-14 ore a fronte dei 6 ore e mezzo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Eravamo costretti a pagare tutta una serie di servizi ai caporali, dal trasporto che costava 5 euro, e viaggiavamo in condizioni precarie, dentro quei furgoncini messi a disposizione i caporali, senza sedie, impacchettati lì dentro come le sardine, perché un furgone da 8 posti previsti per le persone, eravamo lì 30, dovevo pagare da mangiare, eravamo costretti a pagare il panino durante la pausa, 0,50 all'acqua, 1,50 euro. Queste sono le condizioni che ho scoperto a Nardò, che ho vissuto sulla mia pelle, quale non potevo più accettare. Ho deciso quindi di dire no ai caporali, no a quel modo di fare, e ho organizzato questo sciopero trascinando i miei compagni in questa avventura per me che ho ritenuto importante e fondamentale per la conquista dei diritti. Abbiamo quindi organizzato questo sciopero che è stato definito il primo sciopero a storia dei lavoratori stranieri in Italia. Lo sciopero che è durato un mese, siamo riusciti a mettere in difficoltà i padroni, i caporali, i padroni. E uno sciopero che ha portato a dei risultati importanti, soprattutto la legge sul caporalato, il reato penale di caporalato che è stato introdotto nel nostro codice penale all'articolo 603 bis. Poi la cosa bella è che molti dei nostri compagni che fino a ieri non avevano coraggio hanno denunciato i loro abusini caporali, imprenditori, facendo nome e cognome, si sono aperti diverse inchieste e processi. E il nostro è stato il primo processo in Europa contro la schiavitù sul lavoro, contro il caporalato. Because I'm 18 and I still live with my parents, yeah, they're not like yours. Well, yours are more understanding. I never fell in love, I saved those feelings for you. So let's do all the stupid shit that young kids do. It's me and you, ooh, ooh, ooh. It's me. Noi siamo riusciti con questo sciopero a suscitare una dinamica politica e culturale su questo tema che c'era, bisogna ricordarlo che non è un fenomeno che si è manifestato con l'arrivo dei migranti, ma è un fenomeno antico in questo paese che esiste da decenni, che sfruttava i cittadini italiani, oggi sfrutta gli stessi italiani con l'aggiunto degli stranieri. Quindi se ne parla un po' di più, la legge sul caporalato comunque ha permesso alla magistratura di poter avere in mano uno strumento per poter fare l'indagine, perché prima era difficile fare l'indagine sullo sfruttamento, sulla schiavitù, perché mancava una legge organica. Adesso ce l'hanno e i processi e le intere inchieste che emergono perché c'è questo strumento giuridico importante. Poi è chiaro che con la repressione, con una legge, non si risolve un problema endemico. Qui mancano altri strumenti e soprattutto bisogna applicare gli strumenti che ci sono già. Noi abbiamo chiesto varie volte di applicare l'articolo 8 della stessa legge sul caporalato, della legge 199 del 2016, che introduce un elemento di prevenzione, degli elementi di prevenzione contro il fenomeno dello sfruttamento del caporalato, a partire da una riforma dei centri per l'impiego, perché il caporalato, come lo sappiamo, è una sorta di intermediazione, è una intermediazione illecita di manodopera, una sorta di centro per l'impiego mobile, perché quando le imprenditori, le imprese agricole, gli agricoltori hanno bisogno di manodopera, non vanno più a cercarla presso i centri di collocamento, ma chiamano il caporale di turno per avere quella manodopera. E quindi questo fenomeno si manifesta anche perché i nostri centri proposti non funzionano. Quindi abbiamo chiesto una riforma dei centri per l'impiego che tarda ancora ad arrivare. Poi dall'altra parte servono più controlli. Quindi bisogna anche qui capire come funzionano i nostri centri, l'ispettorato del lavoro, perché io quando lavoravo, per esempio, non ho mai visto la presenza di un ispettore del lavoro sul campo. Questo è quello che dovrebbe fare lo Stato immediatamente. Poi dall'altra parte va ricordato il grande problema del modello produttivo, del sistema economico capitalistico ultraliberista, in cui noi abbiamo un mercato che produce quella roba lì. Il caporalato è funzionale a un modello, a un sistema che si basa sullo strapotere della grande distribuzione organizzata, che impone i prezzi dei prodotti agli agricoltori senza tener conto che bisogna partire dal rispetto dei diritti. I prezzi sono sempre più bassi. Questo non dà margine ai contadini italiani e loro a loro volta scaricano essendo schiacciati dalla GDO, dalla grande distribuzione, loro riversano tutto sull'anello più debole della filiera agroalimentare, cioè i lavoratori. Si è visto per esempio la protesta dei pastori sardi l'anno scorso, perché non ce la facevano più a poter portare la loro attività avanti, perché il costo del latte a 60 centesimi non consente al pastore di vivere sul lavoro. La stessa cosa in agricoltura: quanto costa quando viene, diciamo, indicato il prezzo del pomodoro a 9 centesimi, il costo della GDO a 9 centesimi al chilo, l'agricoltore non ce la farà mai, le arance a rosarno a 6 centesimi e così via. Quindi c'è un problema di prezzo, c'è un problema che bisogna rivedere su tutta la filiera agroalimentare. È molto chiaro, molto chiaro. Insomma, non è solo una questione di caporali, non è soltanto una questione di sfruttamento, ma di tutta la filiera. Esatto. Ci dobbiamo fermare un attimo, ma torniamo a parlare di questi temi con lei tra pochissimo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta... I figli di Enea. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Hit that house, they tell me is you with it, yeah bitch. Siamo oggi pomeriggio con Ivan Sagné. Cosa possiamo fare tutti noi? Esiste un bollino etico, una filiera certificata? Come fa il consumatore a comprare una passata etica? Sì, allora sì, lei ha giustamente parlato di un altro elemento importante della filiera che riguarda il cittadino consumatore, che ha una responsabilità importante, che può contribuire a definire questo cambiamento grazie al suo potere di acquisto. Cioè, la consapevolezza del cittadino consumatore nel momento di fare l'acquisto, di comprare il prodotto, può fare la differenza. Bisogna sempre, secondo noi, farsi delle domande, no? E questo prodotto che sto per comprare, da dove viene, come è stato raccolto? Queste domande possono salvare il mondo, salvare un settore come questo. Per questo noi abbiamo messo in campo l'associazione NoCap per dare quelle risposte che oggi lo Stato non dà, cioè intervenire su un meccanismo di tracciabilità della filiera attraverso il bolino. Noi, grazie a questa operazione, siamo riusciti ad esempio a tirare fuori dalla schiavitù, dallo sfruttamento, circa 400 lavoratori che fino a ieri erano vittime di caporalato, che vivevano in quei ghetti di cui parlavo, e siamo riusciti non solo a inserirli in questo circuito di lavoro legale che noi... Lavoratori stranieri ma anche italiani? Ma anche italiani. Io quando parlo di lavoratori parlo di tutti, perché il fenomeno del caporalato è un fenomeno trasversale che colpisce non solo gli immigrati ma anche gli italiani. Noi abbiamo, tra gli assunti che abbiamo fatto quest'anno, abbiamo assunto 50 donne italiane vittime di caporalato nel sud della Puglia, nel Salento e nel Metapontino, perché... ricordate la storia, la vicenda drammatica della bracciante italiana Paola Clemente, deceduta nel 2015 per caporalato ad Andria. Quindi abbiamo voluto anche dare un segnale su quel contesto molto complicato dello sfruttamento delle donne italiane che avviene in questo paese da più di 70 anni. NoCap è un grande movimento che vuole dare delle risposte sociali e ambientali sul territorio. Questo parte dall'assunzione, da dare un lavoro dignitoso ai nostri lavoratori. Mettiamo a disposizione i braccianti l'accoglienza, no? Per incentivare la fuoriuscita dai ghetti. Mettiamo a disposizione i mezzi di trasporto per accompagnarli nei campi. Non sono più costretti a salire in quel furgone dei caporali, ricordando la vicenda di 3 anni fa, quando 16 braccianti morirono nel Foggiano in seguito a un incidente stradale, viaggiando nei furgoni malandati dei caporali. Diamo la possibilità al consumatore finale di avere un prodotto giusto, un prodotto pulito, un prodotto etico. L'ultimo caso, noi abbiamo ricevuto da Milano in Lombardia tantissime telefonate da parte di cittadini che purtroppo per colpa di grazie alla vicenda drammatica di quegli imprenditori Bucconiano, della Straberi, di questa società che è stata oggetto di inchiesta della magistratura, i cittadini, i consumatori di Milano hanno scoperto nel cuore di Milano un aspetto che non si aspettavano, che pensavano lontano dalle loro realtà, dalle loro parti. E quindi riceviamo tantissime telefonate di cittadini che vogliono consumare i prodotti etici. Poi è chiaro che il tema della sostenibilità dei prezzi è un tema che il cittadino, soprattutto anche con questo momento drammatico che viviamo con l'emergenza sanitaria, cioè ci sono difficoltà economiche, guarda molto spesso al prezzo del prodotto con la crisi che c'è. E questo è anche comprensibile, no? Come diceva lei. E allora, come cercare un prezzo giusto, ma allo stesso tempo sostenibile anche per una famiglia in difficoltà? Ci sono delle indicazioni se una verdura costa troppo poco, qualcuno è stato sfruttato? Sì, diciamo che ci sono dei margini che si può, su cui si può lavorare per rendere competitivi i prodotti etici, a partire per esempio dalla riduzione del costo energetici, dall'introduzione della filiera corta. Sapete che molti dei prodotti costano molto perché fanno più passaggi prima di arrivare al consumatore finale, e ogni passaggio che fa il prodotto in questa filiera aumenta il prezzo, quindi ci sono dei meccanismi che ci consentono di abbattere i costi, ritornando per esempio all'aspetto energetico, cioè il costo del lavoro nella formazione di un prezzo non rappresenta più del 20%, il costo più importante è il costo energetico, quindi per esempio lavorando per formare le nostre imprese, per incentivare l'uso delle energie rinnovabili, riusciamo ad abbattere i prezzi. Poi è chiaro che c'è un altro meccanismo abbastanza naturale che può far abbassare i prezzi, che è quella di portare a sistema i prodotti etici, creando la cosiddetta deflazione. Si sa che in economia, quando i prodotti sono troppi sul mercato, i prezzi si abbassano naturalmente. Quindi fin quando avremo una minoranza di prodotti etici sul mercato i prezzi saranno alti, ma quando inizieranno a prendere un'importanza i prezzi si abbasseranno da solo, perché il produttore potrebbe fare leva sulla quantità e potrebbe quindi abbassare il prezzo. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood, bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. È la regolarizzazione dei migranti braccianti agricoli. Ha avuto un suo valore, perché poi in realtà molti dei braccianti che lavorano in Puglia invece che in Sicilia, in Calabria invece che al nord, hanno il permesso di soggiorno, nonostante questo vengono sfruttati. Sì, diciamo che è stato sbagliato mettere sullo stesso piano lo sfruttamento e la regolarizzazione, che c'entra poco. Lo sfruttamento non è strettamente legato alla regolarizzazione, alla irregolarità del cittadino straniero sul territorio italiano. Quindi l'approccio per noi è stato sbagliato, ma io non sono uno, non faccio parte di quelli che dicono che la legge non serviva, non è servita a niente, no. Serviva una regolarizzazione di migranti, perché non si può avere sul territorio italiano 600.000 persone invisibili, ma e come l'hanno fatto che è stato un problema. Però questo comunque ha consentito a 200.000 persone su circa 600.000 di avere un pezzo di foglio, quindi di avere un codice fiscale, di poter registrarsi, di poter avere delle prospettive in questo paese. Volevo chiederle se lei a questo punto della sua vita e della sua attività si sente un italiano, oppure se le sue radici africane sono ancora preponderanti. Ma io mi sento italiano, mi sento italiano al 100%. Non ha ancora la cittadinanza? Non ho ancora la cittadinanza, questo è un peccato perché mi limita molto con la burocrazia che c'è, però sono perfettamente italiano e quindi la mia famiglia è italiana e quindi diciamo qualche contraddizione, ma facciamo con quello che c'è e andiamo avanti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto di questa puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima alle 14 sulle frequenze di Radio 24. Buona domenica a tutti, buon ascolto. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.